sa cosa c'è, ma allora è perché se ce ne sono due, però ce ne buschiamo altri due per fare più casino almeno. Adesso mi viene un po' male, adesso proprio mi viene male. A San Perro la ieri mattina sì, perché adesso becco più. E a futtettini là non c'è problema. Non c'è problema. Due già ci sono, ballano con quella se vogliono ballare. Vabbè, non c'è, l'avrei saputo la ieri mattina, con il piantino ce l'avremmo avuto, completo pure. Vabbè, dai, già va bene lo stesso, si arrangia, poi Samuele è di qui, già si arrangia. Vabbè, là c'è un amplificatore, basso e basso. Non so che attrezzatura c'è, non te lo so dire, ma c'è la console, capito? Tanto quanto? Ha la console, c'ha... Allora, per il karaoke usano praticamente, dovrebbero usare il computer, in più. Non ce la fa. Aspetta. Manuela, dì a Pierpaolo se ce ne ha di portata. Che cosa? Le casse. Ma gli ho detto non ce la fa adesso. C'è anche quello di Samuele, guardate con quelle. Poi sempre c'è da guardare gli attacchi, Pierpaolo, un casino, c'è quella che attacca a Pinotto, c'è quella che attacca a Borsetto, insomma, non è che fare così così inavvertitamente, poi magari arrivi lì e l'attacco non va bene. Aspetta un attimo che sono al telefono. Ehi. Oh, già. Ehi. No, niente a fare, già partito lì da Olbia. Non è possibile perché non c'è neanche il fratello qua e quindi niente. Ehi, vabbè, io te lo preparo, non fanno male. Mannaggia, so bello da ieri, avevo un bel piantino, avevo un buscato, E vabbè, ma si tratta sempre di cose, di pagare un bel piantino. Adesso sarà di l'anno. Comunque sta già facendo lo stravagante. Come lo stravagante? Perché gli ha chiesto di mettere la musica, la nuova che voleva lì. Però io sono il CG, la musica la decido io quella che devo mettere. Così è. Cosa mette? Hai di le capromette ti fanno ciao. Ma è un po' un CD che li fa ballare tutti per fare quello che c'ho io. Ma io che porto il mio amplificatore, io. Che regalo. No, non c'è bisogno, non ti mettere problemi. Si arrangiano loro. Gianni, sentito mi hai quello detto. Che facciamo la contro questa, porta tutto quello che hai agli anni 80 e facciamo sentire la musica. Gli 80, se pure mando io a ballare. E vuoi vedere come rulla lo subito? Ha detto Giuseppe. Dove? A casa tua? Ma cosa? Il radio ti faccio chiamata alle tre. Ciuppa! Vento, ci sarà dormito. No, non dormo. Poi io dormo là. Papà, sentito, papà! E Marco? Facciamo fare il DJ a Marcolino. Sì, si arrangerebbe anche magari. Infatti non è... Ma per il camera, cazzo che fuoco. E da subito il disco, ma il coccodrillo come fa? Ma se per papà, con la... con il Nintendo 10 c'è anche la telecamera, oltre che la macchina fotografica. Tu, 4 megapixel, ma ne fa bene le foto. Chissà che me lo compro anch'io, Quello ti fa scegliere di testa, c'è tanto di quella cosa che ti camufla la voce, ti fa un bel coso, ma mi piace per quello perché fa molte cose, mi piace scoprirlo. Cazzo cuore il capo mio, e avevo pure di saper uscire in capo. Marco, ma cosa fa di fare lì? Ti fa disegnare, ti fa fare tanti segni dei video, poi ti fa camuffare le foto, quello che ti ho detto, poi ti fa fare dei vestiti degli animali, lo stesso delle camuffazioni delle voci, e poi ti fa la telecamera piangola, e poi ci sono altri. Cos'è la telecamera piangola? Quella che si... Che ti amici la piano No, questa è più. Sono belli così qua. Con gli uomini ce la fa. No. E come no? Se c'è fa tutto l'ho che ce l'ho fatto. No, ora non viaggio a deluso. Aspetta però. No, no, se non fa la pizza non me la compro più. Attenzione, Natalino Facinetto. Ciao, Lucretta Rastagnani. Attenzione, Natalino Facinetto. Ma chi sei, Natalino? Ciao. Ah, Marcolino Facinetto. Lucretta Rastagnani, il Nintendo di Sai, ha un po' di cose. Ma è Facinetto questo Nintendo? Come te? Attento, Marcolino Facinetto, Marcolino Facinetto. Buonasera. Buonasera, buonasera. Attenzione, Pierpaolo Vela 1. Hai visto per caso su Facebook quanti... Io mi rivolgo lì nel, diciamo, nella... lì sulla tua destra, no? Ti appa ogni tanto qualcuno da aggiungere. Sono tutti quelli che sono amici di Ritta, qua per la baracchino. Tutti quelli e tu li stai aggiungendo, tutti. Sono 5 quelli, Oh, you're horrible. Silvecco che chiama qua Italia Sardegna Nord, avanti. C'era qualcuno a chiamarla. Ah? Già c'è qualcuno al sotto, signora. È vero? Ehi. Un piccolo però. Piccolo piccolo, Santiago 7 qua. No, io sento un basso. E magari un altro, c'è un casino, propagazione. Non ci conosce adesso, eh? Sul bar Osaccio. Ma ci sta lì giuro. Ieri sera di Accianera, che bella. Di Rocker Park, in Germania, Santiago 9. Già. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Ciao, mi anche io ho parlato con Vicky. E poi con altri da Taranto, dalla zona di Trento. E vabbè, con Piero Mecchè ci ho parlato, da quando ero a Olmedo fino ad arrivare alla fine della 4 corsia a Tronco Reale. Dopo ho chiuso e sono salito a casa, ho riacceso e ho ascoltato a te con Piero. Viene martedì mattina qua. No, ma io sto parlando fuori quelli lì. È entrato questo qua dalla Germania che parlava italiano. E dice, mi sei vissuto vicino a me, Santiago 9 e la Radio 4. È registrato. Ma come era la registrata? E poi non gli ho chiesto la verità. Perché io una volta adesso di uno dalla Germania, che fa ma tu per arrivare, quando siamo messi a gridare, Italia, Italia mia, quanto tempo sto senza vederti, era un italiano e mica più germano. Questo qua non lo so, infatti questo ha detto alla faccia del Papa, una cosa del genere, poi non ce l'ho registrato comunque. Dice, mi sono seduto vicino a casa, Santiago 9, Radio 4. Tu eri rimani. No, qua. Zappa. Una propagazione. È tutto possibile. Lì al lavoro è un casino, qua. Mi arrivano propagazioni tutti Santiago 9, 9, 10, a me non mi ascoltano. Sono in una zona ben negativa. Se ti poni dove c'è a Usico, cade sopra il mondo. La lì già ti beccano il calo. Ma dico, dove sono io? Hai visto già, anche tu mi ascolti piccolo piccolo, figurati. Sì, è vero, ieri mi hai detto se ti sto perso. E poi ti ho perso, ti ho sentito in un punto registrato alto avanti. Positivo, adesso io stacco un attimino, mi faccio la caffeina. prendi anche lo caffè, così vedi. Tre ne prendo, uno la mattina, uno dopo pranzo e uno la sera, là, se coincide, se no la sera non ne prendo mai. Uno la mattina e uno la sera, dopo pranzo. E anche dopo pranzo lo prendo anche la mattina, lo prendo con il latte e buco, come mi devo. Il cappuccino mi faccio con la schiumosa bella ambrosa, con molta schiuma, molta tipo guarda. No, io mi faccio mezzo litro di latte a casa, poi vado dritto al bar, caffè macchiato, poi dopo pranzo niente, dopo pranzo caffè normale, poi se c'è la sera lo prendo, se no non lo prendo, però la sera fino a una certa ora, se supero dopo le 6 non li piglio più, se no non mi fate dormire. Ma invece no, se lo prendo anche di notte mi fanno mancare lo stesso, no, non mi dà nessun problema. Quello che mi dà problema è la tachicardia a volte, se ne prendo troppi mi sento tremolito. Beh, se esageri, quello penso lo faccia a tutti. Gaba gaba. Walter Paolo, riprenditela. Gaba gaba. Sta difettando questo spinotto, sta difettando. E pure a me mi va la tachicardia, che mi devo ritirare. Un po' di CRC. sembra mischiato, rimane giallino il colore, no, quando tu lo spussi è sempre liquido, non è più liquido. Ce l'ho, addirittura c'ho quello lì, che è grasso con, diciamo, con CRG, e poi c'ho proprio il grasso spray, invece, grasso proprio, Sì, lo usavo anch'io, quello che prima si liquido, poi si forma, si diventa denso. Guarda, tra l'altro la bolletta del CRG secco per contatti si distingue dal rosso perché è più piccola ed è rossa pure la bolletta, invece il verde è rossa. Ho capito quale. C'è quello, c'è il Marine 66, poi c'è quello per contatti, già ne ho visto pure io, ce n'è di tutti i tipi, ce n'è. CRC. E come per mal conosciuto, ma te lo svizzero è buono. È buono, per certe cose va benissimo, quello che fa la non mi ha messo la marca. Svizzolo. Arexon lo fa. Io lo uso molto. Io Svizzolo è quello, è quello originale proprio, è quello dell'Arexon. Poi ce ne sono anche altri. Guarda. Tanto io vi saluto che mi facevo il cosino adesso. Siamo stasera allora che vi ho detto, ok? Positivo è caparrogeno. Ciao già, dai, prendi il limo. C'è un altro bravo più casino. Ragazza, dai, fate il riposino. Mreccocco. Di Giuseppe. Oi, buonasera a tutti. Ciao Antonio, buonanotte gli anni doppio rum e buonasera vera. Ciao Giuseppe, sentiti, se 25 minuti in ritardo, la porta più. Giuseppe, ma non ci dovevamo sentire. Cacca, io sono rientrato adesso, cacca di Roger. Mamma mia, come sei serio. Sto parlando piano perché c'è la figlia centigrotto che ha preso sonno adesso. Ma fatto bina. Cacca. Un tigrotto con le unghie. Maria ragliata che vai tu a rimani. Sì. E allora cosa state combinando di bello? Avete caricato, sì. Insomma, qualcosa non l'abbiamo caricata, ma poca roba, Cappa di positivo. Io oggi un pochino di brovaglia, tanto per tenerci leggeri. Cos'hai a 4 minuti? Cappa. Brodo, la carne del brodo e l'insalata. E basta. Però c'ho ancora fame. Bisogna che non ci pensi. Ci vogliono un paio, una mezz'ora di tramezzini adesso. Cazzo velumi, mamma mia, quelli con tonno, uova, insalata, poi quelli con prosciutto, fontina, maionese, gnam gnam. Un 30-40 gocciari di cose tiramisù. Anche quello ci sta bene. Oppure anche un bello yogurt adesso. Un bello yogurt ai frutti di bosco. Ah, no, quello no, eh. E da voi facciali correndo a mutande in mano. Oia. Ha chiuso meglio quello, allora, altro che fontana, io ho detto Antonio. Faccio la trasformazione di Sassari. Quelli fanno bene, tanto per tenersi belli fuori e puliti dentro, mi pierpa. Ciucucciù. Ciucucciù, Un bus. Sto sistemando un Tornado 34S. Bene, sto uscendo, sì. Su che andiamo? Dai, sta zitto. Pomponio. Dimmi. Sì, vabbè. Allora. Ma poi, abbiamo morito crisi, mamma mia. Morendo, se mi sono andato a vedere. Ero, sembravo infatenato dentro un blocco di gesso. Antonio, ma quella roba là ce l'hai tu? Che cosa? Quella che mi hai detto stamattina. Quella che ti ho detto stamattina c'era un amico mio. E bisogna andare da lui e fatela vedere. Kappa, quindi non sai manco prezzo. No, negativo. Cioè il prezzo della terra lo so. 30 euro l'una e calando le antenne. Ce ne ha una ventina. Il lineare non lo so, glielo devo chiedere. Capa. Anda bene me, vai. Va bene. Oh, cavolo, fortunato io. Se ne ha una trentina e in mezzo a quelle 30 non ha un attacco come ce l'ho io. No, tutta roba Sirio, Intec, non ne ha di quel tipo lì, capito? Di quel targamento lì non ne ha. L'ho già visto io. Capito? Capra. Oh, Pierpaolo, poi il verticale e ti devo dare una dritta. Mi devi dare una dritta? Kappa. Oh, sicuramente te ne sarai accorto anche tu ieri. Comunque, io in cuffia sono stato molto attento, molto. Non ti ho capito, in cuffia? Kappa, ieri sera, quasi alla fine delle trasmissioni. La portante. Mi devi dare una dritta? Kappa, c'era la portante ieri, no? Sì, Kappa. Ne parliamo in verticale. Perché con le cuffie si è scoperta vita e miracoli di quella portante. Kappa. Sì, ma farò tanto, fra un po' ci vediamo. Positivo al 100, anche perché poi intanto se ci sentiamo troppo è inutile parlarne qua, ci si capisce meglio il verticale per qua. Per quanto riguarda quella cosa che ho ritirato ieri, tutto K di positivo, K di tuo ascolto alla grande anche stamattina. Adesso hai capito sì come funziona. Sì, piano, poi magari se ne dimentico qualcosa basta una rinfrescatina di testa e si riprende alla grande, perché tutte quelle altre funzioni non me ne faccio niente, mi interessano solo quelli lì che sono quelle, diciamo, quelle vitali. E il resto non ne fa niente, tanto quelle devono stare ferme così, cosa è inutile mettersi a spiegare, perché poi magari ci sono un sacco di altre cose, ma non te ne fai niente, lasci qua i parametri, così me se non lo devi toccare più, l'altro devi mettere soltanto quello che ti serve, se ti interessa mettere quello che ti serve, poi tra gli altri intanto mica devi mettere a spostare, a fare, e passo i 5, i 10, i 25, quello non te ne frega niente, penso almeno che cioè, è già impostato con i parametri così, o lasci così. Certo, quei parametri, guarda, sono perfetti, anche perché è di lusso. Qua con quei parametri lì è da metterci un chiodo e lasciarlo così per sempre. Intanto il resto l'hai visto, lo fai manualmente oppure lo inserisci a mano, ma è meglio che fai la prima impostazione, no? Cioè i primi tre numeri e poi l'altro te come viene fatto manualmente per non perderci molto la testa, perché quando lo inserisci manualmente tutto quanto poi diventa un po' carognoso e ti inceppa, capito? Anche perché devi fare in fretta, se no ti scatta il gol, non lo positivo al 100 per K. Comunque è tutto K. K, K, K. Comunque tutto sommato si vede meglio con i nitriti sinceri. E infatti una volta che si vede un paio di volte per K, poi già ci si incubica in testa. E visto così dalle... dalle istruzioni era una cosa, cioè per me era inarrivabile, perché ci ho provato diverse volte, ma sempre con scarsissimi risultati. Anche se magari il tasto che mi so per memorizzare a destra e un altro è a sinistra, però tutto sommato il succo del discorso è sempre quello, perché la funzionalità di quegli apparecchi è quella, mi hai capito? Però anche su quello piano piano abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Sulla destra, Scaglie sulla sinistra, Grassi e la Serranda di destra. se ho passato per quarta volta, ma perché non c'è il segno, non c'è niente. Mi insegna Costa. Arrivano due PL per non salire a Sassari, mette quello lì a pedalietta e niente, non ho cioè non ho trovato a lui, sono andato da Melchiorre e l'ha chiuso. Poi non si trova più niente, non si trova più niente, la sera io sono andato da Fusaro stamattina per chiedergli alcune cose, c'è addirittura chi dice che qui quelle vetrine con la chiave esagonale per bloccare l'antenna, no? Quando regolo le stazionarie, sono comprato a pugni piedi da Fusaro, bim bum bam, sono andato da Fusaro, mai avuto quelle vetrine. C'è la gente a dire la verità, io sto cercando il led di quelli blu, sono andato a Fusaro, cazzo come al solito non è. La CPC c'è provato, no, la CPC la sa perdere. Cara. Led blu, cosa sono le blu? Mi servono due led blu, di quelli piccolini però, capito? Quelli che per illuminare il 48, quelli lì. Sono led bianchi, sono che fanno la luce blu, che dico cosa mi penso. Se tu vai ai cinesi ti pigli una di quelle spade che sono multicolori, ci sono led che sono cinesi dentro. Sì, ma quelli non vanno bene per il 48 perché sono di quelli grandi, qua ci vogliono quelli piccoli. No, è quello che ti sbaglio, sono piccoli. Se non si occupa la spada dei cinesi va a pigliare le led, boh, non si compresa. Ma io ho creato la spada dei cinesi e mi sono fatto tutti gli apparecchi, tutti i led dei piccolini. Ma lo vuoi, vedi qua, te lo faccio vedere quel led, mi dici se è quello che ti è seccato oppure no. In verità ne ho tolto due da un buffo che hanno regalato a Gaia. E siccome facevano le luci troppo forti, gli dice la cosa fate male a luci. L'ho smontato e gliel'ho dato a Gavino, poi Gavino mi ha detto non funzionano. Io c'avevo di quelle 4-5 di quelle spalle, adesso non mi ricordo dove stanno, ce le ho messe. Se ne trovo una di quelle spalle lì, ti do tutti qui la fila di quelle e così te lo piazzi. Ce ne sono 6, sono in fila, uno parlare dall'altro sono. E per la luce celeste. E che cinesi sia andato? E dai cinesi che ci sono al posto subito di Emanuele sono andato, una di quelle spalle che quando accendi fa ni, poi fa come suono, poi c'è i colori, diventa verde, bianca, e c'è red e piccolini c'ha. Quanto la 2 euro con la spalla lista? Gaba. Con cosa stai parlando? Col tornado poco fa mi sembra aver sentito, così è? Il tornado sta 4S, esatto. Ma tu è? No, me l'avevo fatto riparare e l'ho messo a posto. E gli ho messo quel led celeste nello Switzer. Guarda, se vieni stasera che non stai facendo niente, te lo faccio vedere. Non ci credo, non è vero, ci credo. Ma è normale questa cosa, tornare, c'è canali, com'è? C'è la scheda dentro, la scheda dei canali c'è. E di chi è? Di Luciano. Ma Luciano quello che conosco anch'io? Eia, quello che mi ha portato quel baracchino con l'eco, te lo ricordi? Eia, ma la radio non è come piace a me però, eh. Ha aperto tutto, le cie, tutto aperto. Lo sa ben su. Anche questo qui, lo aperto delle cie di fatto. Sì, ma non spinge tanto. Così è, Terpa. Rosa! Questo tornado che sta usando coso Pomponio. Non spinge più di tanto. Ehi, per il microfono che sta usando. Che microfono hai, Antone? Microfono normale. Oh, lì, cazzo, ma nel mio non c'è paragone. Io ti metto un microfono normale nel mio. È un bel forte la radio. Questa non lo so. Non lo so, io mi sento ascoltando la radio e a parte questa occasione che c'è adesso, aspetta. Aspetta, c'è problema anch'io. Cosa? Io non ti ho compreso nulla, c'era qualcuno sotto. C'è un problema, aspetta, ci faccio contatto. No, guarda che sto benissimo, sta uscendo proprio male male, c'ha il body tutto così sotto, sì. Adesso però bisogna vedere, niente, adesso lunedì o martedì mi cambieranno perché infatti non gli ho restituito il rosmetro a Pierpaolo, perché ho detto mi devono cambiare scavatore, così magari da uno all'altro cambia qualcosa, e invece me lo cambiano lunedì o martedì, e vabbè, niente, l'antenna l'ho smettato su uno e ho mettere le mani. Positivo, positivo. Avanti Antonio, Antonio Bombolo sul canale 21. Gamba. Se ti cambiano il coso ti conviene rosmezzarla. Ma cosa ne hai due turbo 2001? Capo Roger, però una è, diciamo, è tutta antenna. E c'è da comprare la porcoletta, quella che va sotto nella staffa, che non c'è. In più le devo prendere la farfalla per fare il cavo, quel bolloncino, PL, devo prendere, fare il cavo nuovo, diciamo, là. Già, sì, ma per quello già. È una fesseria a farlo. Che fa? La mandronina, devo salire stamattina ad Antonello a prendermi questa roba per farla. Ehi, vabbè, va. Tu sei, avanti. Ehi, Pierpaolo, c'è, sì, c'è sempre. Capa. Pierpaolo, un LPD a quanto si può trovare? Un LPD? Ma su tecnocomunicazioni, G7. Bene, G7 gli ha modificato. $75 $75 Le funzioni sono ottime. Le funzioni di un LPD. Vada PRM e dell'LPD tutte e due. Anche di questo poi quando abbiamo due minuti ne parleremo in verticale, perché è una cosa che mi potrebbe interessare. Ma il G7 ti fa tutti e due contemporaneamente. LPD e PMR. LPD c'ha 69 canali, del PMR 8 canali. Sono io in apparecchio. C'ha tutte le funzioni che devo avere un LPD e poi modificato tre volte. Cava. Ce lo fanno già loro gratuitamente con lo stesso prezzo. Positivo, Pierpaolo. Sto caricando tutte e due, lo so. Positivo, Antonio. Perché ne ho due, ne ho io. Cappa. Poi dimmi, uno serve per già carica le batterie, adesso sono un po' niente tolgo. Ieri sera, gli ho dato una piccola caricata attorno. Cappa, io mi sono caricato bene il coso, l'intake. Come tu? Ah, ho capito. Portatelo. Cappa, il 5,50. 5,50 hai visto? L'acqua 520 quello. Ho 520, adesso sono in penombra e non ci vedo un Kaiseretto. Sì, è le 5:20. Ma gli ho caricato un'altra cosa invece. Il telefonino. Bravo. Io devo uscire stasera, adesso come apro il tabacchino mi avvicino qua via Pascoli e gli do una scaricatina al ragazzo. No, no, io non l'ho caricato ancora. Finedina a zero. Io sono agli sgoccioli stesso, mi pare ci siano, dopo la fracassata di stamattina mi sa ci sono rimasti 2 euro, si viso puro. E cosa tu ti hai preso? Non è telefonato in America? Ehi, non è telefonato in America, è che ti chiama, chiamami, quell'altro caso mi arriva una chiamata stamattina con questo numero, ho detto strano, schiaccio Telecom in Italia, c'è una telefonata a coso, a mio carico da parte del telefono, sarà qualche urgenza, e l'accetto, dice schiacci uno per accettare, invece era questa grandissima imbecillotta su da continente che aveva sbagliato numero. Così tu non lo devi accettare, poi la richiami normale. Lo so, non ci ho pensato. E vabbè, pazienza. Oh, Gerpa! Dicaci! Ieri stavamo parlando di quel microfono di Calvino, quello normale che diceva un po' la radio un po' così. Cos'è che gli ho detto? Quello deve fare un che mi serve, che tanto con quella radio non lo c'è mai. Tu arregatemi, scusa che te le ripeto. Solo con i pantaloni, per non dirti altro. Sì, ma è tutto da vedere anche, capito? Da provare, magari quello me lo porto, me lo porto via per due lire, mi hai capito? Nel senso, magari usami, proprio, vediamo cosa ne vuole. Lo faccio dare al limite, lo proviamo tutto quanto, poi non è che gli devo dare anche subito, no? Possiamo vedere quanto ne vuole prima, secondo quanto ne vuole conviene prenderlo subito. Positivo, vediamo un pochino, se si può fare l'affare va bene, perché veramente ho fatto, va, credimi, nella postazione in cui sono ho fatto forse anche più di quello che potevo fare. E adesso sto sistemando alcune cosette che ho lasciato indietro. E per forza di cose io ho dovuto spendere quei due soldini. Vediamo, io non obbligo a nessuno, vediamo se lo porta, cosa è, cosa non è. Se si può fare per poche lire si fa, se no si dovrà andare a ricordo. Positivo Massimiliano, vederlo non costa niente. Gabba gabba. Non mollo. Su, su. Non avete parlato in due, chi è? Sto resuscitando, sì. Vento se valvolare. No. Resuscitata. Ma di cui di avere qua. Io ma va anche a due. Gianni, hai sentito il profumo e ti sei svegliato come la bella addormentata nel bosco? Per la verità non vi ho mai mollato, non mi sono mai addormentato, anche perché c'è Marco che è super eccitato da questo intento, lo sta scoprendo, lo sta facendo, mi chiede consigli, questo e quell'altro, e non mi ha fatto usare. Cava, cava. Casale, come ti chiami tu? Io mi chiamo Casetta, su che si frulla. Oh, Pierpaolo. Dica. Quella cosa là la porto io, è bella calda. Cava, cava. Perché qua hanno rotto il... Non qua da me, no, da Gianni, hanno rotto il termo. Non preoccuparti, lei l'ha già preparato, l'ha tutto bello bollito, sistemato, bello sterilizzato, era pulito, però era da un po' fermo, mi hai capito? Non ci stanno problemi, la macchina mi ha può fare anche il caffè, guarda. Addirittura. No, ma che... Vabbè, ma lo porto io già fatto da qui, anche se non ne bevo lo porto io. E di zucchero quanto ne mettiamo? Niente. No, dai calmo tu, che non ne bevi caffè. Oh Pierpaolo, io a Lella gli ho detto di fare la caffettiera grande. E quanti cucchiaini ne mettiamo in quella grande? 5 cucchiaini vanno bene, sì? E quanti sarebbe la grande? Penso sia da 6 tazzine quella. Da 6 tazzine, da 6 tazzine. Uno per tazzina, più la parte di due. Sono 6, 8 cucchiaini. Cappa. E di dove ti passi questo caffè in America? Sono per te, lo sta facendo. E che cosa? Il caffè, perché io con lo zucchero non ne vorrei. Non per me, ma perché tu caffè bevi? Certo che lo c'è un... E cosa mi devo mettere quel caffè? C'è il zucchero? Cappa, fermi un attimo, forse ho qualche bustina qui a casa. Passa pure! Vabbè, fallo velocità, non c'è problema. Cioè, hai rotto il termos, adesso contesti lo zucchero. Lo mettiamo il fruttosio, io non ne bevo il zucchero, non ne posso, non posso berlo con lo zucchero. Positivo, KK. Chiamerò portiere il sacchetto col cucchiaio. Fermo restando Gianni, io lo faccio un quarto d'ora prima, Io lo so se lo volevo fare, però mia moglie ha rotto l'affare. Cioè, il termo si è rotto il vetro che c'era dentro. È proprio il pezzo più importante quello. Ma io adesso fra un pochino esco, perché dietro via Pascoli c'è un bel negozietto dove ci sono un sacco di cianfrusaglie. E siccome ne devo prendere un altro, se lo trovo lo prendo e così con quella scusa vi porto anch'io la droga. No, vabbè, allora portati il tuo, già ci arrangiamo lui, dai. Già ci arrangiamo. Io da tanto lo devo prendere, lo devo prendere l'altro, e sono sicuro che quella mia amica ce l'ha, e anche a due soldi lo prendo, non è un problema. Vabbè, già se ne può fare a meno di un caffè, dai. No, Pierpa, portiamo, tranquillo che portiamo uno e l'altro, vai tranquillo, e non è disturbo quello. Vabbè, allora io porto solo la graticola e la camera. Pierpaolo, Gianni, le fette biscottate integrali per me, se possibile. Integrali, c'è di tutto, c'è domani fette biscottate. Sono a dieta. Chierine. Oh, che cosa è quel rumore? Oh, cos'è dovuto? Ma quale questo? Ho la macchinetta per la schiena, Pierpa, perché io soffro di schiena, col lavoro che faccio oramai ce l'ho bella rovinata. E ce l'ho qui all'altezza dei reni e mi fa questo effetto. All'altezza dei reni, cioè. Massimiliano. Anche io sto facendo niente, ma Perugini ti sentirei avanti. Grazie a tutti, se ce ne voglio mangiare, di e voi. Su che rulliamo, ragazzi. Va. Ecco cosa fa, prende il giro, piglia e magna, via. Antonio e Pierpaolo. Avanti Antonio. No. Quello è il altri che sono per mezzo di canale, sono a codici. È della stessa cosa più o meno. Sì, infatti, è quello. Brava, brava. Infatti io quello della barra pesante, l'Excel e i multi, non riesco a trovare la scheda per aumentarlo di 40, perché questo si ferma a 40 canali. C'è, solo che bisogna portarlo a farlo. C'è l'ultimo catalogo della Midland, Giuseppe. Quando ti trovo te lo do così lo guardi. Ci sono tutti gli apparecchi della Midland, gli ultimi usciti. Ci sono quelli a 12 e quelli lato modello. C'è quello a esportazione, c'è quello normale. L'unica cosa che non sono riuscito a modificare è stato quello che ho in barra pesante. 40 canali è nato e 40 canali ce l'ho ancora. Adesso, quello bisogna portarlo, come si chiama? E farlo fare al limite. Vabbè, ma è una delle fai, dicendo che a parte se sempre su 40, vabbè, sull'estesa, cliccate 45. E infatti, ma credo che qui sia questione con di apertura e di chiusura punti come quell'altro. Mi sembra che la questione di apertura di Ponticello A e B di Maria. Ci vuole qualcuno che ci abbia veramente in gradimento e ci abbia saldato le belle, quello giusto, perché posso essere dove giù io, rischio di saldare due piste, non solo di una solo. È positivo, positivo al centro Antonio, riprenditela tu. Gappa, vediamo un attimo per me, dai, ce la presentiamo dopo fra un pochino, Gappa. D'accordo. Tappa di positivo, vai. Io faccio qui RX che c'è mia moglie che mi sta chiamando, vediamo un po' che è successo questa volta. Ci sentiamo dopo ragazzi, qui RX per Giuseppe. Via, d'accordo. A dopo. Via, ciao Giuseppe, ciao Antonio, qui c'è Pier Paolo mi sembra, riprendi Pier Paolo. Via, capo, mi sto preparando per uscire anch'io, dai. Sentiamo fra un pochino dalla macchina. Positivo, là, se ci sono ci sentiamo dopo là. Adesso accompagno Daniela giù, e dice vuole stare, vuole stare all'ova al sole, con la. Ma cosa succede, fa due. Cosa è successo? No, forse il cavo di alimentazione, boh. È mezzo andato. Allora, ci sentiamo dopo, se ci sono ancora, se no può proseguire questa giornata, di serata, non di giornata. Ciao, dai, sto uscendo, riprendo la macchina, fra un paio di minuti. Ciao, ragazzi, vai, buon po'. Via, ciao, ando a fare una buona passeggiata, la pietà. Ciao, no, controllo, se riesco a trovare quelle di cellule, ti chiederò. Perché non mi ricordo dove ce l'avevo messi. Positivo, la pompa positivo. Sì, i cinesi ci vanno quel così, non ne hanno fusato, né, ma è come la GBC. L'unica cosa è che ho comunque le spalle che vendevano sono nere e hanno il colore verde, rosso, giallo, arancione, capito? All'esterno. Però i cinesi sono tutti quanti uguali. E se no bisogna allenarli, ma bisogna aspettare un bel po'. Cosa? Se uno gli parla a un certo punto che sto volando con le spalle, a volte ce le buttano, me le faccio dare. Se non funziona, mi fa qui rete e te li porto. Gappa. Non so adesso stasera, non so se loro ci sono a quadrato, se non ci saremmo visti. Io l'ho fatto celeste lo Smith, che bellino è la verità, c'è un bel colore, le volte che quindi la lampadina l'ha fulminata e va giù molto l'urete, va giù molto. Sì, anche io l'avevo messa la celeste, ma è tornata bello bianca. No, va bene anche celeste, è bellino, fa un bel di luce, fa. un bello sfondo qua, ormai a te mi devi lo sai che ha tutti quanti gli indiceristi, eh? Io lo so così, tutto illuminato di blu. Sì, già l'ho visto, c'è l'ultimo catalogo della migra, eh. Sono uguali, l'unica cosa che c'è, tu e quattro celesti, compreso anche il display. Io lo so, te ve ne so, ce ne sono di un bel colori. No, io adesso mi da Gavino e faccio togliere queste lucettine, due rosse che c'ha, quella dell'Afi e del Tix. E le faccio mettere con i led bianchi, che si illuminano di blu. E basta. Beh, la figlia che sta. Auria. K2K, là. Lo secondino anche per me di bianco, pompo. Che qua mi chiamano, per scendere la pupa giù al sole, un po' là. Sentiamo dopo se coincide, se no buon proseguo.